Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Novembre e dicembre del 1805. Ad Austerlitz, disfatta austriaca e vittoria dei francesi guidati dall'imperatore. Vienna costretta a scendere a patti, Venezia e Dalmazia passano al Regno d'Italia. Annullato il calendario rivoluzionario, Parigi torna a quello gregoriano. Pugilato match record, John Galli è campione britannico in 64 riprese. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Iniziamo andando sul campo di battaglia di Austerlitz. Vous faites où? Austerlitz, sire. Eh bien, messieurs. Audio preso dal campo dunque e con la voce di Napoleone Bonaparte. Ancora una volta è bastato il suo arrivo appunto sul campo e l'armata francese è tornata alla vittoria. Nelle battaglie in mare, Trafalgar lo ha dimostrato, i francesi hanno ancora parecchio da imparare, ma sulla terraferma non c'è storia, specialmente se alla guida delle truppe c'è lo stesso imperatore Napoleone I. A dir la verità, sul campo di Austerlitz in Moravia di imperatori ce n'erano tre, se si contano anche lo zar Alessandro I di Russia e quello del Sacro Romano Impero, Francesco II. I numeri della battaglia danno l'esatta misura di quel che è successo. Bonaparte poteva contare su circa 73.000 uomini contro gli 85.000 dei suoi avversari e su 140 cannoni contro 278. Alla fine le perdite francesi in battaglia sono state di circa 8.000 tra morti e feriti, 15.000 tra gli austro-russi. Anche il conto dei prigionieri dice molto: 573 francesi, 12.000 austro-russi. A tre settimane di distanza dallo scontro, a Presburgo, è stato firmato un trattato nel quale l'Austria viene costretta a cedere una serie di territori, tra cui Venezia, Istria e la Dalmazia, che vanno a confluire nel Regno d'Italia. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Addio Brumaio, Vendemmiaio e Termidoro, alcuni dei nomi che per 15 anni i francesi hanno dato ai mesi dell'anno appunto, e addio anche alla suddivisione in decadi invece che in settimane. L'imperatore ha deciso di ripristinare il calendario gregoriano. L'11 nevoso dell'anno 14 sarà dunque un semplicissimo 1 gennaio del 1806. È stato un incontro record, durato 64 riprese per 1 ora e 17 minuti di combattimento. John Galli è il nuovo campione di pugilato d'Inghilterra e ha vinto sconfiggendo il suo rivale e amico Henry Pierce. Il match, il secondo tra i due dopo quello che si è svolto quando Galli era ancora in carcere per debiti, è avvenuto a testimonianza della grande passione inglese anche tra i ceti più alti per il pugilato, alla presenza dell'erede al trono William IV. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che la condotta è Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Potete anche visitare il nostro blog. Se volete scriverci e non avete penne e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.